Lettere a Radio 24, a cura del direttore, con la collaborazione di Luca Cremonese. Gentile direttore, la signora Marcegaglia parla di tagli agli sprechi e trovo sacrosanta la proposta. Vorrei sapere, che fine hanno fatto gli enti inutilissimi? Perché ci sono auto blu per ex parlamentari, visto che paghiamo loro pensioni che noi poveri cristi non riusciamo nemmeno ad immaginare? Le auto blu si intendono indispensabili anche per andare dal barbiere o solo per spostamenti inerenti alla funzione? Perché insistere nel definire la RAI servizio pubblico quando è legata a doppio filo ai partiti, cioè a gruppi privati? Se è tanto difficile abolire le province, perché non stabilire che per essere province debbano avere almeno un congruo numero di abitanti, ad esempio 1 milione? Perché l'Associazione Nazionale Magistrati non fa divieto ai suoi membri di entrare in politica se non dopo aver lasciato il mestiere da almeno 3 anni? I medici possono esercitare nei paesi membri dell'Unione Europea. Perché a scegliere i nostri primari non potrebbe essere un gruppo di medici europei? Perché non prevedere aumenti per gli insegnanti se i prossimi risultati dell'indagine PISA per la valutazione internazionale degli studenti evidenzierà un miglioramento per gli studenti italiani? Perché la promessa di dimezzare il numero dei parlamentari è sparita da primarie, convegni, riunioni di alto e basso profilo? Perché non si fa obbligo a giornalisti di radio, televisione e carta di apprendere l'italiano di base? Mariangela. Per avere diritto alle agevolazioni fiscali per la ristrutturazione di casa mia, ho dovuto dimostrare di aver pagato l'ICI negli ultimi 10 anni. Mi aspetto che prima di ricostruire le case in provincia di Messina si faccia altrettanto. Marco. D'Alema, rappresentante degli esteri dell'Unione Europea. Ma stiamo scherzando. D'Alema è quello che abbraccia Hamas e odia Israele, è quello che sta supino di fronte all'Islam, è quello che ha bombardato la ex Jugoslavia. Non ci posso credere. Se proprio deve essere uno dell'opposizione, piuttosto mandateci Casini o Veltroni. Angelo. Giovedì sera Michele Santoro si è divertito moltissimo a dare un andamento pruriginoso alla sua rappresentazione teatral-televisiva del caso Marrazzo. A momenti si stroppicciava le mani per la contentezza di dover maneggiare un argomento sul quale, più che le sue virtù di fustigatore dei corrotti costumi, pareva lo interessasse il tessuto boccaccesco, a volte financo porno, della materia. La trans che troneggiava al centro del suo studio stadio, con relative tifoserie contrapposte, sembrava fare marketing a se stessa quando diceva «da me non sarebbe successo». Un momento apicale della trasmissione è stato quando si è accennato all'esistenza di una lista di altri 12 VIP della politica sospettati di frequentare i Viados. Gli occhi di Santoro brillavano luciferini quando scongiurava di non fare i nomi. «Per carità, non diciamo niente», ma era come se avesse l'acquolina in bocca e pregustasse il piacere di sbatterli sul suo ring mediatico. La Serracchiani è stata, come al solito, sveglia, furba e di lingua affilata e pronta. La sua tesi è quella del PD. Marrazzo ha sbagliato ma si è dimesso, mentre Berlusconi no. Mi sono chiesto se le dimissioni di Piero Marrazzo da presidente della Regione Lazio siano sufficienti a mettere a posto la questione di ordine morale. Non so se Marrazzo sia iscritto al PD, ma nel caso fosse iscritto mi chiedo, può un militante del Partito Democratico frequentare i sordidi e pericolosi ambienti della prostituzione transessuale della città per anni? La morale di un iscritto e per giunta esponente autorevole del partito non dovrebbe escludere comportamenti inaccettabili per la comunità che amministra e per la sua stessa famiglia esposta allo scandalo? Possibile che si debba accettare tutto in nome o della privacy o della libertà sessuale o non so di che altro? Quale messaggio trasmette alla società la notizia di 5.000 euro pagati per una prestazione sessuale? Un partito deve essere severo con i suoi iscritti e assai di più con i suoi esponenti. La questione morale non può essere limitata alla corruzione per denaro o per tangenti, ma va estesa anche al comportamento nel privato, che non può essere sottratto al giudizio dell'etica laica. Non ha dignità chi sperpera il denaro nella coltivazione di vizi. Non discuto che si possa avere una relazione omosessuale o con un trans, se questa è frutto di un sentimento di amore. Ma qui si tratta della compravendita di prestazioni sessuali, in un contesto di degradazione e di disfacimento della politica, che diventa mezzo per poter praticare stili di vita goderecci e spendaccioni. Pietro. Berlusconi si è definito generoso per l'avvertimento telefonico dato a Marrazzo sull'esistenza di un video che lo comprometteva, dandogli anche il numero di telefono della persona che avrebbe dovuto contattare per togliere il video dalla circolazione. In questo intento di correttezza, Berlusconi ha manifestato tutta la sua limitatezza istituzionale. Come ha ben rilevato Rodotà, Berlusconi interpreta tutto il suo agire in chiave privata, di amicizia o inimicizia, di fedeltà o infedeltà, di lealtà o slealtà, con me o contro di me. Insomma, non riesce a pensare in termini istituzionali. Questo sempre e dovunque. È nella sua natura di non politico. I giudici lo condannano? Sono suoi nemici perché sono comunisti. Nemmeno pensa che possono soltanto aver applicato la legge. I giornali lo criticano? Sono calunniatori e non si preoccupa di smentirli. La stampa mondiale lo accusa? È influenzata dal povero PD. Sintomatica la sua frase «farò vedere di che pasta sono fatto», più adatta ad un boss cui è stata sottratta una fetta di mercato di droga che a un presidente del Consiglio. Per l'affare Marrazzo si vanta di quello che ha detto, non considerando che è il presidente del Consiglio che parla al presidente di una regione, non un privato a un privato. E questo è gravissimo, altro che correttezza. È semplicemente mancanza di senso dello Stato e delle istituzioni. Ma, come direbbe il Manzoni, chi non l'ha non può darselo. Giuseppe. C'è una cosa che suona molto strana in questa storia guazzabuglio che è il caso Marrazzo. I media riferiscono. Il presidente Berlusconi viene a conoscenza del video e chiama, per dovere di cortesia, il presidente Marrazzo per informarlo del video e suggerendo come e dove poterlo acquistare. Il presidente Berlusconi è persona intelligentissima, molto furba e accorta, grande imprenditore che viene dalla gavetta e non fa niente per niente e, cosa non di poco conto, ricco, molto ricco, e potente, molto potente. La nota stonata di tutto questo è quando si dice che tramite la figlia Marina, secondo la versione ufficiale, viene informato dell'esistenza del video, che viene offerto alla Mondadori per alcune decine di migliaia di euro. Se questo video viene proposto per caso, e a quel modico prezzo, è comunque una bomba quasi regalata, anche se non viene fatta esplodere, viene distrutta o viene riposta al riparo in polveriera. Ho fondato un motivo di pensare che qualsiasi persona, anche di non ingenti disponibilità economiche, avrebbe acquistato il video e lo avrebbe conservato in cassaforte. Un vero gentleman avrebbe dovuto immediatamente rilevare il video e seppellirlo nel più blindato dei suoi caveau. Magari poi, molto più in là nel tempo, avrebbe potuto invitare il presidente Marrazzo a Macherio per un tè. Cosa umanamente comprensibile, anche se eticamente o cristianamente non giustificabile. Invece questo video gira e rigira per molto, troppo tempo, e prima tra le varie magioni mondadoriane. Per caso? O per rispondere ad una strategia ben precisa? Franco, Reggio Calabria. Mi sono indignato moltissimo nell'ascoltare le pretese del signor Franco Coccia di voler mantenere i privilegi acquisiti quando era parlamentare. Già i parlamentari maturano il diritto alla pensione dopo una sola legislatura, mentre per un qualsiasi lavoratore occorrono più di 25 anni continuativi per il minimo. Fate sapere all'illustre personalità che ha detto che moltissime categorie mantengono i benefici che io, quando lavoravo presso un'azienda di trasporti pubblici, avevo la libera circolazione sui mezzi aziendali con la tessera di servizio. Ma mai e poi mai i miei familiari hanno goduto della libera circolazione come lui ha detto. Dopo aver condotto gli autobus per 30 anni, oggi, se ci voglio mettere piede, devo pagare il biglietto, perché i pensionati hanno tolto anche questo privilegio. Alessandro. Gentile direttore, sento parlare spesso di medicina alternativa come se fosse stregoneria che fa solo perdere tempo a chi tempo da perdere non ne ha proprio per niente. Vorrei dire la mia a questo proposito. Alternativo significa che si sostituisce a qualcosa con analoga funzione o finalità. Alcune delle persone che hanno impiegato una vita a cercare delle terapie alternative a malattie importanti come il cancro sono medici oncologi, biologi, chimici e non stregoni. Tutti si ricorderanno bene il professor Luigi Di Bella, ma ce ne sono altri: il dottor Valsè Pantellini, il dottor Tullio Simoncini, il dottor Panfili, il dottor Giuseppe Nacci. Terapie che hanno lo scopo di sconfiggere queste malattie, possibilmente cercando di evitare ai malati sofferenze enormi, come nel caso della chemioterapia, unica terapia attualmente riconosciuta dal Sistema Sanitario Nazionale. A questi medici e ricercatori, definiti eretici perché non seguono i paradigmi e i protocolli della medicina ufficiale, i malati ricorrono spesso quando dall'altra parte non viene data loro più alcuna speranza di vita. Ad uno stadio della malattia così avanzato e con un sistema immunitario irreparabilmente compromesso dall'applicazione fino all'ultima riga dei suddetti protocolli, anche le cure alternative, che lavorano soprattutto sul sistema immunitario del malato, non sono in grado di fare più niente, e quindi viene dichiarata la loro totale inutilità e inefficacia, con una sorta di «te l'avevo detto io». In realtà, in assenza di una qualsiasi sperimentazione, non si può dichiarare il fallimento di una terapia. Il sistema non dà alternative, perché le alternative non solo non vengono prese in considerazione, ma addirittura vengono censurate. L'ultimo caso è accaduto non molto tempo fa a Trieste, dove l'Ordine dei Medici ha sospeso il dottor Giuseppe Nacci perché non ha usato gli strumenti e i protocolli imposti dall'establishment scientifico, lasciando così, a piedi, numerosi suoi pazienti che stavano traendo benefici dalla sua terapia. Perché succede tutto questo? Non è forse vero che le migliori scoperte scientifiche sono avvenute affrontando sempre una certa resistenza da parte del sistema? Fleming scoprì la penicillina per errore. Anche Galileo fu considerato un impostore. Perché non viene data la possibilità a questi medici di sperimentare le proprie ricerche? Perché, quando ci si ammala, non ci viene realmente offerta la possibilità di scegliere il tipo di cura da intraprendere, passando da una condizione di sudditanza ad una di libertà? Veronica. Gentile Veronica, il tema che lei propone è altrettanto delicato quanto importante. È in gioco una delle condizioni più sensibili per ogni persona, come la malattia. Così come è in gioco la speranza di guarire, aggrappandosi ad ogni possibilità anche al di fuori di quella che viene chiamata la medicina ufficiale. Non posso e non voglio entrare in singoli casi, ma le regole che lo Stato, non solo quello italiano, impone per approvare una terapia devono rispondere alle esigenze di correttezza e di prudenza. Un farmaco o una terapia sbagliata o inutile rischia infatti di aggravare in maniera sensibile e irreversibile il decorso della stessa malattia. Sarebbe interesse di tutti, delle aziende farmaceutiche in primo piano, raggiungere risultati positivi sulla cura dei tumori, e per questo sono mobilitate nel mondo grandi risorse pubbliche e private. Sperare che una terapia risolutiva possa nascere un po' casualmente mi sembra francamente un'illusione. Un'illusione tanto più grave perché crea speranze infondate, proprio in persone fragili come i malati. Sto conducendo una battaglia in difesa di una categoria che, pur garantendo sicurezza stradale, ovvero sicurezza sociale, non ha riconoscimenti. Il settore è quello delle riparazioni auto, nello specifico quello dell'autocarrozzeria. Questo importante settore, che comprende oltre 16.000 imprese sul territorio nazionale, dando occupazione ad oltre 80.000 addetti, vive un momento di difficoltà importante e non certo dovuto alla congiuntura internazionale. Queste imprese hanno la necessità di un riconoscimento ufficiale del proprio lavoro, che rappresenta uno degli elementi di maggiore garanzia di sicurezza stradale. Non si capisce perché, sulle nostre autostrade, i pannelli luminosi posti sulla rete indichino nella stanchezza, alcol e distrazioni gli elementi esclusivi di sinistrosità. Perché non si esplicita in modo inequivocabile che circa il 18% degli incidenti avviene per una cattiva o assente manutenzione dei veicoli? Perché non si cerca di porre al centro della discussione sulla sicurezza il ruolo inequivocabile di una categoria che certifica lo stato d'uso del veicolo? Quella delle carrozzerie italiane è una categoria che ha, per il 98%, contratti a tempo indeterminato, estrema necessità di manodopera qualificata, la disponibilità ad assumere almeno 14-16 mila addetti, la garanzia esclusiva di mettere in strada auto sicure e verificate. Credo sia necessario valorizzare in un marchio di qualità etica questo importante comparto. Fabio. Dipingete e poetate pure, se così vi piace, sulle bellezze del luogo più bello del mondo. Ma permetteteci, come è nostro dovere, di associare un nuovo concetto del pittoresco a qualche vaga indagine sul destino e sulle capacità umane, le quali mi paiono più aperte alla speranza fra i ghiacci e le nevi del Polo Nord che fra il sole e i fiori di Napoli. Così scriveva Charles Dickens della Napoli di oltre 150 anni fa. Stefano. Queste erano alcune delle lettere selezionate tra quelle che ci avete inviato all'indirizzo lettere@radio24.it. Il prossimo appuntamento con le vostre lettere a Radio 24 è oggi pomeriggio alle 18:30. Continuate a scriverci.